despierto suona un coppe il giornaletto e mamma te minaccia e padre te s'arraccia. Te fanno gira a capo sti fumette guardando dentro specchio, vuoi fare il toreador come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood. E questa scusa in uno studio più torero. Come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood. E questa scusa in uno studio più autore. Pierdo suona in coppe il giornaletto e mamma te minaccia e padre te s'arraccia. Fanno gira a capo sti fumette guardando dentro specchio, vuoi fare il toreador come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood. E questa scusa in uno studio più. Uno sigari a vani a gamba selle.